Attenzione, dici, c'è qualcuno? Ehi là, Eugenio, che tu fai? Ah, capo, in Roma ti sei specializzato in targhe luminose. È bravo. Adesso sono 11, ci sono gli americani. Li sento di splatter, non te li mangi. Adesso sono 11, secondo scala, sai quanti watt stanno usando? Hai finito di lavorare per oggi? Ah, boh. E almeno stacchi un po' la spina, dai. Attenzione 10, attenzione 10. E infatti, hai fatto bene, sei stanco, hai fatto bene a staccare un po'. E qui tu non è che fai turni, diciamo che fai turni spezzati, non è che fai turni continui, capito? Cazzo. Purtroppo, lavoro e lavoro. Qualche notte già me l'ho fatta anche io, lavoro, quando abbiamo svoltato il negozio di Stintino, abbiamo lavorato tutta la notte fino all'indomani mattina. Abbiamo messo figuri per i nuovi, e c'erano gli operai, cazzo, che lavoravano tutta la notte, le mogli che li telefonavano, lui, chissà quanti mogli gelosi vedi. E poi ti lascia, il giorno dopo, ti lascia un vuoto, strano, ti senti tutto strano, mamma mia, io lo so perché i notti li ho fatto tante, facendo servizi a ambulanza, i notti li ho fatto a bizzeffa, lo so cosa vuol dire. E vabbè, dai, grazie a te c'è un lavoro che anche ti soddisfa. Però vabbè, me ne sono qui a dimenticare di travagliare. Ho detto io me ne sono dimenticato di lavorare, comunque già lavoro lo stesso. Stasera mi stavo facendo un bel lavoro a casa, cazzate, però poi vanno fatte. Ho cambiato la tavola del water, le ho messo tutto, metto bianco attorno, in tutti e due i bagni, insomma, tanto per tenere la casa in ordine. Sì. Diciamo che non è una pensione di vecchiaia, quella è una pensione sempre. Adesso a 67 anni vado in pensione di vecchiaia. Ho detto che quella di vecchiaia me la danno a 67 anni. Sì, contributi con la pensione di invalidità, è un assegno ordinario di invalidità si chiama. No, ma non te la calcolano insieme. Praticamente ti calcolano sino a quando tu hai lavorato e poi praticamente ti pagano quello. Se tu hai lavorato mentre prendevi la pensione come me, hai maturato altri contributi e quindi ti pagano anche quelli, capito? Quindi verrò a prendere di più di quanto prendo adesso. Però anche adesso non sto male, dai. Se non ci fosse tutti questi aumenti che ci sono. Ogni volta che vado a fare la spesa mi sono sempre aumenti, sempre aumenti. Bisogna prendere la roba quando è in offerta, se no sempre aumentati. Vabbè, va male. Per molta gente ci sono tante persone anziane, può venire che non ce la fanno arrivare a fine mese. Vai, vai, vai, tranquillo. Pace e bene. Ebbene, come va Don Marco? Così dai, un po' spallato stasera, ho fatto pomeriggio e diciamo è stato più produttivo, ecco, ho fatto varie commissioni e basta, adesso sono un po' spallato. Oh già, questo è il 9009, fermo da tanto, mic originale, dimmi tu. Sempre buono, sempre va bene, tranquillo, è sempre lui. Che poi, a dirla tutta, sono tutti uguali questi apparati, gli cambiano la buccia e vedi la scheda è uguale o quasi, con qualche piccola rifinitura. Va bene, chi c'è in ruota? C'era Eugenio dal portatore, se mi ha ricevuto una telefonata in questo momento. Ho sentito. Va bene. E per il resto, chi sta entrando, chi non sta entrando? Ho sentito che Alghero sta entrando in PMR, lo sai, la ruota di Alghero, finché entra il 27, sta entrando in PMR, siamo sempre lì, da. Ma per forza questo PMR cosa lo usate a fare? C'è la 27 27, poi dici tutti 27, no? Cosa eri in mente di chi si va? A me non mi piace, a me non piace più qua. Io il più bello l'ho regalato, ti dico la verità, non me ne faccio più nulla. Eia, no, io a me è rimasta tutta roba nell'armadio, buttata, ogni tanto carico le batterie, le stacco pure, le tengo scollegate perché non sia che si scarichino poco a poco, perché ci sono alcuni apparati che tu, anche se lo lasci spento, se vai a misurare poi col test, pochi milliampere, magari un milliampere, però lo consumano, moltiplicando tante ore, tanti giorni, tante settimane, alla fine te la trovi scarica. È come una dispersione, ma me lo fanno anche dei PMR veri, PMR proprio veri, omologati. Se lasci le batterie dentro, pochi giorni te le trovi scariche. Io ho iniziato a non mettermi a caricare, ma non lo so, ma cos'avevo, l'ho regalato perché non lo usavo più. C'era molto, c'è gente, molto, non c'era, non c'è più, sì. Poi, secondo i pulsi non mi sento, perché io usavo il mio. Io c'ho un clomologato qui. Sì, Antonello Pomponio li sente bene, cioè pensa Dalghero a Sassari in PMR, chiari chiari. Vabbè, di PMR c'è solo la banda, poi VAT, le antenne esterne fanno il resto, capito? Però di PMR vero c'è solo la banda, la frequenza, ecco. Ma infatti, cioè non è regolare, capito? Se ti metti l'antenna esterna è normale che senti a tutti, ma io voglio mettere l'antenna stretta, non me la butti nulla, a parte che non potevo metterla perché mio non si poteva svitare nemmeno il mio, era fisso. Eia. E vendevano anche il kit di modifica per certi apparati, per esempio la Intec lo prevedeva, la Midland lo prevedeva, tu al posto dell'antenna originale che andava disallata mettevi praticamente un attacco filettato SMA e te lo vendeva la Intec, capito? Però c'era un problema con l'Intec che avevo io, l'impedenza dell'apparato non era di 50 ohm, quindi anche se tu gli mettevi un'antenna, no, ho detto stronzate, dimenticatelo, ho sbagliato già. Ascoltarti sta. Comunque il mio era l'Intec, sapete come il modello era, vabbè, comunque me l'avevano modificata a un watt, andava, usciva con un watt invece che con pochi milliwatt. No, già, sai perché mi sono ricordato una cosa, la Intec ti dava anche un'antenna specifica per quando avevi modificato per esempio l'Intec, no? Quel modello o quei modelli Intec, però poi non ricevevi nulla e ti sentivano anche basso, quello perché? Perché si è scoperto che quell'antenna schifosa venduta dalla Intec aveva 10 di stazionarie, c'era completamente starata, non risuonava. Invece se tu mettevi un'antenna, che ne so, veicolare, un'altra antenna dedicata, fatta, bella tarata per quella frequenza lì, allora funzionava correttamente, però alla fine non ne valeva la pena già, non ne valeva la pena, non c'era il tanto. Guarda, io quello omologato Intec che ho comprato, l'abbiamo comprato da Grassi insieme a Tarino e ce li abbiamo divisi perché li vendevano insieme. Ce li abbiamo divisi, tanto ci avevano due alimentatori e ci siamo divisi gli apparecchi. Un alimentatore l'apparecchio l'ho preso io, un alimentatore l'apparecchio l'ha preso lui. E ce li avevamo tutti e due, perché alla UBC costava una barca di su. Hey. Vediamo se è rientrato Eugenio, no, al telefono. Sta picciolciando. No, ho detto è al telefono. Faccio capito. Mamma mia, già, ti sento rimbombante, scusa, però certe volte sarà il mio orecchio, però non capisco il 100% del parlato. Perché sono lontano un braccio dall'apparecchio. Per quello magari. Io poi parlo, diciamo, vicino al mic, però di lato, non lo tengo frontale, sennò arrivano gli sbuffi di come parli. KK. Va bene, anche questo funziona. Adesso lo posso rimettere nel cassetto. Ma il mic che c'ho io non lo posso mettere vicino alla bocca perché è quello da tavolo. È l'MB4. Beh, certamente. Ho capito. Posso anche allungarlo, ma è controproducente che c'è da tavolo. Conservate. Vabbè, allora è giù. Ettore Squalo. Allora disarà entrare, ciao Squalo. Cioè che arrivi dalla chiusa e me lo bene, fanno cosa. Bravo. E lì a passeggio. Ma che passeggio, è la gente che dice a mio nipote dalla palestra. Se la tappiglia da fare il conto, capito. E dove è tu? Io tutta la sera che faccio quel muratore. Già da te? Ma che cosa hai fatto sta gira? Mi sono messo quelle piastrelle che mi sono uscite, mi ho comprato il collante e me ne sono attaccato. Da poi ho aggiunto tutta carta, la fuga che mi è tutta quanta al water, tutta quanta a cemento bianco. E poi ho cambiato anche, come si chiama, la tavola del water, insomma, ho ripristinato tutto quello che c'era ripristinato. Guarda che per attaccare il cosa hai fatto? A cemento bianco non si fa con quello dei mattoni stesso, lo facevi. E dici avere un mattesi. E vabbè, ho fatto con cemento bianco. E tu stai dicendo qualcosa? No. Quello che si usa nelle fessure dei mattoni. E io sono mamma e tu metti il giama. Non lo so, io non è che me ne intendo utilizzato. Comunque, io l'ho sempre fatto così, l'ho fatto sempre bene così. L'ho fatto di nuovo così, da lui oggi dovuto tutto buio, un casino. Mi sono tutto schizzato di cemento, va. Quello è il lavoro da intonaghino. Non bisogna farlo con vestiti vecchi, invece l'ho fatto con la tuta nuova e era tutta quanta sporcata. Però già c'era uno straccio bagnato, lo passavo subito già di scivo. Sì, perché è così, con lo straccio bagnato ne esce subito. Era manco direi finito, e te esci dove? Infatti, almeno fatto parte non mi messo più. Arrivare mangio un compagno con una mola, perché invece era bruciata. E me l'ho presa roba, mi ho preso quella Black & Decker a cosa? La Bricco. No, io c'era anche la lì, dormi quella lì, la moletta. E costava più poco. E io l'ho pagata 43 euro, poi di marca, e Black & Decker si figurano. Anche quella che c'era lì dove è di marca? Di marca quelli lì. Non li ho visto la Lido di proprio molette, no? Altri attrezzi sì, ma molette proprio no. Sì, già c'è, non ti preoccupare che già c'è. Dovevi guardare a parte in su, dovevi guardare negli scaffali a parte in su. L'ho vista io ieri. Allora pigliata, se mi avvicini tu prima magari. Prima sono andato dai cinesi. Io ho visto che erano 35 euro, 38 euro. 100, poi io gli ho detto tu sei Marco, e non so manco di marca, allora sono andato a Bricco. Vabbè, comparato ormai, dai. Trattata, dai. No, non l'ho usato ancora, non ho ancora piazzato il disco. E come l'ho comprata, hai detto una scatola. E va tu bene. Non mi metto nel nome. Sì, piglia di rami. Ehi, Atto, per rispondere a te appena sei entrato, ti voglio dire, tutti questi apparati ce li porteremo nella tomba. Dice, conservate, infatti, ce li porteremo nella tomba davvero. Magari trasmetteremo anche dall'aldilà, chi lo sa. Ditemi com'è l'audio. Allora, ho messo l'adattatore microfonico, ho messo il KPO su questo apparato. Credo di non averlo mai provato, peraltro. Com'è la modulazione? Vai, Gianni, per primo. Bella forte, buona. Ma al massimo sì. No, metà potenza del mic. E i watt sono quelli dell'apparato. Guarda, c'è la metà manetta. adesso è a manetta, sto parlando alla stessa distanza, al stesso tono di voce, eccetera. Vediamo da lontano, lontano tutto il braccio, vedo che va di brutto, boh. Però non so se ci è aumentato il volume in sé. Vedi? Sì, il volume è aumentato, ma c'è una scannata. Prova a premerlo senza parlare. Sì, c'è la scannata, va. Magari è questione di masse, no, a metà, vabbè, comunque funziona, dai, la timbrica com'è, pari al mic originale o migliore o peggiore? No, è migliore, più forte. No, a parte il volume, proprio come timbrica, vediamo Tore cosa ne dice. No, più forte rimane, vale, più forte è la timbrica più alta, nel mic normale. È chiaro. Beh, questo già lo utilizzano in banda laterale, su tutti questi apparati là, qua, 9009, 7009, 6009, e dice che rende molto molto bene in banda laterale sto mic. Ma rende da tutte le parti, rende anche con altri apparati, e io lo sto usando col corpo. Va bene, beh, adesso che l'ho provato, e questo c'è l'adattatore già, come ti dicevo l'altro giorno, anziché avere siccome io ho microfoni amplificati, alla fine ne ho due e non mi interessa nemmeno usarli, cioè per non avere un microfono amplificato per ogni apparato, ho preferito avere gli adattatori in modo da usare lo stesso mic su, non dico tutti gli apparati, ma quasi tutti, là. Poi alla fine uso sempre quello normale. Alla fine mi. No, io ne ho uno su tutti gli apparati. Sul lui c'è il coso, quello che mi ha dato tu, e poi qua c'ho le BBQ4 e nel Cobra c'ho quello che hai detto con l'SK1, che si chiama. Cioè la piedinatura andava bene per i vari apparati, dai. E qua mi pare 1, 2, ma adesso non mi ricordo, 3, mi pare 3 o 4 apparati hanno la stessa piedinatura praticamente, gli altri no, per cui serviva l'adattatore. Va bene, Tore riprendi, adesso lo tolgo comunque. No, io ne ho messo in vendita uno, l'ho messo in vendita, tanto non me ne faccio nulla. Quindi se trovo qualcuno che lo vuole, glielo do subito. E quale serve a me? Il quadribanda. Bibanda? Quadribanda, che sarebbe 4 bande più 50 metri e altro. L'ho messo una parte e l'ho messo in vendita. E mettilo su subito, lo vedi subito. Su Facebook l'ho messo, su cosa dei radioamatori. Mettilo anche su subito, magari c'è qualche radioamatore che gli interessa, qua se lo prende. Io con scatola è tutto originale, il suo coso e tutto quanto, il suo microfono. Un adattatore ad attaccare un microfono, l'MP4 di lui. Che marca è? Incom. E metti uno lungati. Poi, sta sempre molto in chili, vemmo. Solo qualche volta per l'ascolto lo uso. Ma il 27 ci va? Sì che ci va, ha voglia. E come esce il 27? Come escono gli altri? Più potente. Che te lo vendi allora, boh? Io non me l'avevo venduto, quello è completo. Ma che non me ne posso più nulla. Me ne tolgo la metà delle scatole. Ho già. Come la storia mia del 140, dell'857, alla fine erano sempre spenti, perché alla fine usciva meglio il baracchino, cioè più adatto alla 27, non stavo a tenermi questa cosa, peraltro illegale, vabbè, già capito. Alla fine mi sono buriato, sempre fermo, più che altro il 140 no, magari non era fermo, però l'857 era sempre spento. Sì, ogni tanto attaccavo così per farlo funzionare, ma non aveva senso così, erano soldi fermi, ecco. E io da 104 ne ho venduto 4. No, ma a te poi veniva la passione di nuovo e lo ricompravi. Hai avuto, ti ricordi, ne hai avuto vari, ne hai venduto vari. No, io una volta chiuso con quella roba lì, chiuso e basta, tanto non si usa. O se era radiatore oppure il 27 serve a fare cosa, ma... Che puoi fare ascolto, che cosa, i 7000 e passa, 40 metri. Io facevo un po' di ascolto, più che altro lo usavo per quello, 27 non lo usavo per fare ascolto. Qualche volta l'ho acceso e ho parlato, ma proprio per provarlo e basta. Ma lo usavo in baracchini, infatti lo usavo in bozzo. Ma mi usavo quella cagarella che c'ha ciappa, che cosa, invece c'ho un apparato tranquillo. Tu hai detto che c'ha quattro bande, c'è HF 50 MHz, cioè 6 metri, VU è bello completo, deve essere un bel apparato anche, però appunto bisogna avere una passione particolare lì. Poi la ciappola che la frequenza in coso, SSB e cosa, tutto canto. Scusa, abbiamo parlato in due, però bene o male ho capito. Sì, già la conosco. Praticamente HF 6 metri, che serve 50 MHz, poi la V e la U. È un bel apparato, deve essere. Lo conosci? Cosa? Oggi lo puoi vedere. Quanto lo serve a te? Non vedete nà. Tanto la giubbaga a 2 euro lo sto vendendo. Ma chi l'ha presa la seconda mano? Poi la seconda mano me l'ha giubbagato, vero? Vabbè. Ma ogni volta che passa di mano diminuisce anche il valore. Disse Gianni, che me l'ha venduto allo stesso prezzo quanto l'ha pagato lui. No, è vero, sì, no, sto scherzando. E quanto l'ha pagato? Si può sapere? Io l'ho pagato 600 euro l'ho pagato, quindi dopo un notte si brisa. Ma è così, dai, io ho apparati della 27 che ne costano 500, 100 euro in meno, dai. Però sono belli apparati, dai, quelli che paghi vanno bene. Per un radioamatore va bene, dai, è una spesa irrisoria per avere un apparato così. Se interessa a qualcuno il radioamatore te lo compravo subito. Ce n'era uno interessato che lo voleva, l'ho appena aiutato io, nel mese di novembre. Ma se lo vede su Facebook, sta tranquillo, mi telefoneggia. A Sassari? Eia, no, non abita a Sassari lui, abita in paese, a Muros abita. Ho già capito chi è. Gianni? Sì, e beh, lui, più che lui, dai, non ci sono altri civili, no. Dare capi due. Chiodo, no, figlio di... Già, però prima di parlare, sa se hai capito, capi due. Non ho capito cosa hai detto, Marco. No, ho detto di premere bene prima di parlare, se no si sente spezzata la frase. Comunque... Tutti disgridando, mi stanno stasera. Quando ho cantato mi hanno dovuto alzare il volume della voce perché... Mi hanno dovuto alzare il volume perché c'è che altro con basso il volume. Poi lì c'è una regolazione, c'era tipo, ti ricordi quella chat tipo baracchino dei Midland, anche lì c'era il guadagno microfonico da regolare. Qua ti volevo dire, anch'io comunque li ho scontati, cioè una volta che vendi un apparato, metti che l'abbia tenuto quei 2 anni, 3, non ho venduto allo stesso prezzo che l'ho pagato, giustamente in 2-3 anni c'è un parziale invecchiamento e quindi non posso venderlo allo stesso prezzo. Vabbè, dai. Ma io quello che ti ho venduto avevo comprato il microfono nuovo di Zecca, cioè comprato da me perché non ce l'aveva il microfono che c'era normale. Ho comprato quello lì nuovo, ce l'avevo un pochino, almeno 2 mesi ce l'avevo con l'apparato. Poi è piaciuto a te, te l'ho venduto, però Non ci volevo prendere nulla perché era tutta roba nuova che avevo comprato nuovo. L'apparato e l'ha preso l'incontinente, quindi quell'apparato lì non voleva venduto perché me l'ha venduto una ditta che praticamente aggiusta quegli apparati. Gli ha fatto mi ha controllato tutte le regolazioni, ha detto che era perfetto, l'ha ritirato alla fiera e mi aveva avvisato, mi ha telefonato per vedere se lo volevo, perché io ho detto se lo tiri qualche 140 alla fiera in buone condizioni fammelo sapere. E me l'ha subito controllato e mi ha detto guarda non c'è nulla, non c'è niente da toccare, perché l'ho controllato con tutte le attrezzature e l'apparecchio è perfetto, è in frequenza, non c'è niente, i vasi sono perfetti, ha controllato tutto, però come l'ha aperto l'ha chiuso, capito? Era nuovo, nuovo, già lo sai, già l'hai visto com'è. Poi chi l'aveva comprato? Ha comprato l'apparato ed è scomparso, non è più entrato. Oia, chissà dov'è quell'apparato adesso e come è ridotto anche. Ho sentito anche storie di apparati che venivano tenuti in cucina, tutti imbrattati d'olio anche dentro, sai la frittura, il coso, pucci. Poi da pulire un macello. No, in cucina non si tengono gli apparati, si rovinano. Sì, mi ricordo a chi l'avevi venduto, infatti ho detto cazzo, me l'ha presa a me e poi se l'ha venduto. Senti, sei stufato. Eppure dicevi sempre che lo smitter era perfetto, che ti piaceva per quello, e deve essere che l'ha appassionato. Sì, ma giusto lo Smitter apprezzavo, il resto non me ne frega, c'è, funzionava come un volgare baracchino, allora tanto vale tenersi il baracchino, più piccolo, più compatto, meno barasone, più imboscabile, ora riprendi. Devo fare delle cose, no. Cioè così infatti. Vabbè ragazzi, io vi mollo che mi hanno pigliato le batterie, ci risentiamo alle prossime. Ciao Gianni, ciao Marco, statemi bene e anche agli ascoltoni se ce ne sono qualche altro. Quindi, ciao a tutti. Ciao autore, ciao, buona serata, buona carica quando la fai. Sto chiedendo anch'io, ciao Marco, riprendi tu e chiudo perché Teso mi sta chiamando, voglio scendere giù. Eia. Ciao autore, buon proseguimento di serata, ciao Gianni e buona passeggiata col cane, ci sentiamo. Ciao Marco, dai. Guarda, sei accorto che sto chiudendo? Se tu mi dico mi ha messo la testa perché mi ha sentito salutato, è troppo bello. Eia. Ciao a tutti, ciao.